Ciao amici di Radio Web, oggi 22 febbraio ascolteremo i brani più cliccati da voi. Partiamo con la terza classificata. Rihanna con What's My Name. La seconda classificata invece è Gianna Nannini con Ogni Tanto. Duri un attimo, ogni tanto fai spavento, prendi tutto e non ti fermo, amor che nulla hai dato al mondo, quando il tuo sguardo arriverà sarà il dolore di un crescendo. E ora amici vi saluto e vi lascio con la prima in classifica. Ciao! Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbra Streisand.